Buongiorno, benvenuti al corso Kol El Torah. Oggi approfondiamo degli spunti, delle breve indicazioni sul comportamento legato al fatto che questo sabato sera, se Dio vuole, sarà Moed, la festa di Shavuot. E molti si chiedono diverse domande riguardo al giusto modo di comportarsi. Allora partiamo dall'inizio. Il 50° giorno dopo aver contato 49 giorni della Sefirat HaOmer è la festa di Shavuot. Il 50° giorno è la festa di Shavuot. Fuori da Eretz Israel noi festeggiamo 2 giorni di Moed per Shavuot come tutti gli anni. Visto che i maestri hanno insegnato, visto che sulla Torah è scritto Hamishim Yom, 50 giorni riguardo a questo conteggio, ed è anche scritto che Sheva Shabbatot, 7 settimane temimot, e cioè intere, 7 settimane intere, quindi 49 giorni integri, e allora la Halacha ci invita ad attendere la sera di Shavuot, soprattutto prima di fare il Kiddush, che sia proprio già calata la notte. Anche se normalmente di Shabbat e Moed è permesso ed è possibile senza problemi anticipare l'orario rispetto all'orario famoso dell'uscita delle tre stelle, quindi la notte, il crepuscolo, e pregare e fare Kiddush prima, durante Shavuot, cioè chi usa non pregare prima, ma soprattutto non fare il Kiddush prima di quel momento, in modo tale di rendere integre le 7 settimane precedenti. E poi iniziare il Moed ufficialmente di Shavuot. Ora, come tutti i Moedim, c'è l'accensione delle candele del Moed, simile a come c'è l'accensione delle candele dello Shabbat, prima che entra lo Shabbat, tutte le settimane. Quest'anno, visto che lo Shabbat precede immediatamente il giorno della festa di Shavuot, di conseguenza non possiamo accendere subito le candele, e dobbiamo attendere l'orario appunto dell'uscita dello Shabbat. Quindi il discorso che facevamo prima di attendere con il Kiddush eccetera, quest'anno è normale, perché comunque dovremmo attendere per tutto ciò l'uscita dello Shabbat. Facendo un passo indietro bisogna sottolineare che durante lo Shabbat non si può preparare tutto quanto è necessario per il Moed. Sì, è la vigilia del Moed, ma quello che si può preparare da venerdì va preparato da venerdì, il fuoco va lasciato acceso da venerdì con la candela che dura molte ore, eccetera, e tutto ciò che bisogna fare sul momento non lo si può fare finché non esce Shabbat. Quindi anche se si tratta non di cucinare, ma di apparecchiare il tavolo e così via, qualsiasi attività che è per il Moed non va fatta di Shabbat. Quindi dobbiamo aspettare che esce lo Shabbat e poi entra il Moed e si accendono le candele. Ora, normalmente quando è sabato sera facciamo l'Avdalah. Cosa si fa sabato sera che entra Moed? Abbiamo avuto un'esperienza simile quest'anno anche a Pesach, perché il primo giorno di Pesach era Shabbat e usciva Shabbat e entrava il secondo giorno di Pesach. Nel nostro caso di Shavuot sta uscendo Shabbat completamente, sta entrando il Moed, come ci si comporta? Allora, la prima cosa, in generale ci ricordiamo che ogni sabato sera e ogni fine di Moed, l'Avdalah esiste in 2 forme e bisogna rispettare entrambe le forme dell'Avdalah. Quali sono le 2 forme dell'Avdalah? Una è la Havdalah nella Tefillah, e cioè nella Amidah di Arvit, dell'uscita dello Shabbat. Esiste un paragrafo, una formula di Havdalah che si aggiunge alla Amidah, che è intitolata Atah Hivdalta o Atah Honnantanu, secondo le usanze, i riti. E questa formula già è una Havdalah recitata nella Tefillah. La seconda Havdalah è quella che si fa dopo la Tefillah di Arvit con il bicchiere di vino. Ok? Anche quest'anno che Shabbat esce, ma non esce il, diciamo, completamente la festività, perché entra il Moed, anche qui abbiamo entrambe le formule, ma in maniera diversa rispetto a tutte le settimane. La prima, quella della Tefilah, ce l'abbiamo all'interno della Amidah di Moed, visto che entra Moed, la Amidah di Arvit e la Amidah di Moed, e nei libri del Moed vedrete indicata la formula da aggiungere per la Havdalah che va da Shabbat a Moed. E poi abbiamo un'altra formula di Havdalah sul bicchiere che è unito allo stesso bicchiere del Kiddush, quindi non servono due bicchieri, uno per l'Havdalah e uno per il Kiddush, ma sarà su un unico calice di vino l'Havdalah e il Kiddush. Prima di spiegare come si fa l'Havdalah nel Kiddush, bisogna dare un'altra indicazione. Chi non ha pregato Arvit all'uscita all'entrata di Moed e l'uscita dello Shabbat, e quindi non ha fatto la formula di Havdalah che c'è nella Tefilah di Arvit, deve dire un'altra formula molto breve prima di poter accendere le candele. Per esempio, molte donne che stanno a casa e stanno accendendo le candele di Moed e non hanno fatto Arvit, devono e non hanno ancora fatto l'Avdalah, perché l'Avdalah sarà fatta nel Kiddush, quando ci si mette a tavola. Allora bisogna dire la formula breve seguente per poter iniziare a fare cose che di Shabbat non si potrebbero fare, come accendere le candele e la preparazione stessa della cucina e di tutto quanto necessario per la sera di Moed. E la formula è Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Benedetto colui che distingue e divide tra il sacro e il sacro, non come normalmente diciamo ben kodesh lechol, tra il sacro e il profano, perché stiamo dividendo questo sabato sera non tra sacro e profano, ma tra sacro e sacro, tra il sacro dello Shabbat e il sacro del Moed. Quindi, prima di accendere le candele, se non si è fatto Arvit, bisogna dire la formula Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechodesh. Torniamo al Kiddush. Quando siamo pronti per metterci a tavola, e dopo che sono state accese le candele del Moed, e la Berachah, Asher Kiddushanu, Vemitzvotav, Tzivanu, Ladlik Ner, Shel Yom Tov, se si dice Shehechiyanu o meno nell'accensione è un oggetto di differenza tra le usanze, se non, chi non dice Shehechiyanu comunque lo dice nel Kiddush sicuramente si dice Shehechiyanu. In questo caso ci mettiamo a tavola e versiamo il vino, riempiamo il bicchiere per fare il Kiddush. Ora, fare il Kiddush significa guardare nel libro dove è scritto il Kiddush di Moed, e nello stesso libro dove leggete il Kiddush di Moed, leggerete che quando cade di sabato sera si aggiunge il seguente paragrafo. Quindi si aggiunge, abbiamo la berachà del vino, che è Boreh Peri HaGefen. Poi abbiamo la Berachah del Kiddush, che è Mekadesh Israel Veazemanim, Kiddush di Moed. Poi abbiamo la Berachah del fuoco, Boreh Meoreh Ha'esh. E non dobbiamo accendere la torcia o la candela che accendiamo normalmente per la sabato sera. Basta guardare le candele accese per il Moed mentre facciamo questa Berachah. E poi abbiamo la Berachah dell'Avdalah che è Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh, come vedrete indicato nei vostri libri di Moed. E poi abbiamo la Berachah della Shecheyanu, delle cose nuove. Poi ci beviamo il vino del Kiddush, andiamo a fare la Netilat Yadayim e ci mettiamo a tavola per gioire con il pasto festivo di Moed. Spero che queste indicazioni sul Kiddush sono state chiare. Chiaramente potete scrivere domande o mandarmi messaggi per ulteriori chiarimenti. Ora andiamo avanti per ciò che riguarda la sera di Shavuot. Dopo aver mangiato il pasto di Shavuot, si usa rimanere svegli la notte di Shavuot e studiare Torah tutta la notte in preparazione per il rinnovo del dono della Torah il giorno successivo, che è Moed, del primo giorno di Shavuot, in cui si leggono le Aseret Adibrot, i 10 comandamenti. Tra l'altro, va ricordato e sottolineato quanto ricordava ogni anno Il Rebbe di Lubavitch diceva che bisogna ricordare a tutti quanti che così come la prima volta che è stata data la Torah, chi era presente ai piedi del Monte Sinai? Ognuno, uomini, donne e bambini. Allora anche oggi è molto bene, sarebbe molto opportuno fare la stessa cosa e fare partecipare al momento della lettura della Sereta di Berot tutti quanti, uomini, donne e bambini, anche neonati, anche se non sono vaccinati, potete portarli al tempio per sentire la Aseret HaDibrot durante Shavuot ed è una grande, grande mitzvah. Ora, dicevamo appunto che si usa rimanere svegli tutta la notte e studiare la Torah. Esiste anche usanza molto diffusa di leggere il Tikkun della sera di Shavuot, che forse possiamo considerarlo in maniera scherzosa un bignami di tutta la Torah, perché riprende l'inizio e la fine di tutte le parashiot e degli altri aspetti del Tanakh e della Torah Shebaalpeh, della Torah orale, ed è molto importante, soprattutto secondo i Mekubalim, i Kabbalisti, leggere e studiare il Tikkun nella sera nella notte di Shavuot. Si usa abbellire le case e i Batei Knesset con fiori e piante per Shavuot. Ci sono diverse motivazioni. Una delle motivazioni è che è scritto che nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu pronunciò le Aseret HaDibrot, i 10 comandamenti, si riempì tutto il mondo di un odore buono come l'odore delle rose e dei fiori belli. C'è scritto anche nel Midrash che il Monte Sinai si coprì di bei fiori e così via. E inoltre è scritto che Shavuot è il momento in cui vengono giudicati gli alberi, cioè il din, il giudizio. Sappiamo che ogni cosa nel mondo viene giudicato, per giudicato non si intende se è buono o è cattivo, per giudicato si intende quale sarà la sorte, nel senso che quanta acqua riceverà, se sarà più fioritura, meno fioritura, eccetera, eccetera. Allora, queste cose vengono decise in questo contesto nel periodo di Shavuot. E ripeto che sto dando qui solo delle indicazioni molto generali, senza entrare in dettaglio di ogni motivazione e ogni fonte, perché non avremmo il tempo ora per farlo. Un'altra usanza molto diffusa a Shavuot è di mangiare cibo a base di latte durante Shavuot. So che ci sono molte usanze a riguardo e non posso entrare nel dettaglio ed elencarle tutte, però vorrei dare solo qualche indicazione generale. Perché si usa mangiare di latte a Shavuot? Questo è oggetto di molto approfondimento e di molte motivazioni e non entriamo in questo discorso adesso. Ma come si mangia di latte a Shavuot? Questo entriamo sì, senza dare le ricette, ma solo dire come funziona questa cosa. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che durante il Moed abbiamo una mitzvah di mangiare dei pasti festivi. Quanti pasti festivi dobbiamo mangiare in ogni giorno di Moed? Due. Uno la sera e uno il pranzo. Quindi, in questo nostro caso di Shavuot, 4 pasti. Sabato sera e domenica a pranzo, domenica sera e lunedì a pranzo. Nelle 2 sere c'è il Kiddush, la formula lunga del Kiddush di Moed, nelle 2 mattine c'è il Kiddush, la formula breve del Kiddush di Moed a pranzo, e in ognuno dei 4 casi abbiamo una mitzvah di metterci a tavola, di fare il Kiddush, di fare la Netilat Yadayim, di mangiare un pasto festivo, simile al pasto dello Shabbat. Come si definisce il pasto festivo del Moed? Secondo la Halakha, durante il Moed c'è una mitzvah di mangiare carne di manzo o di vitello, comunque non di volatile, proprio di bestia, diciamo così. Non serve mangiare un arrosto intero, però un po' rientrerebbe nella Halakha, e anche bere un po' di vino. Oltre al vino che si beve per il Kiddush, abbiamo anche l'obbligo durante i pasti di Moed di bere un minimo di vino, un revi'it, circa 86 centilitri. Un po' si potrebbe dire un bicchierino il bicchiere classico del caffè dovrebbe rientrare o quasi in questa misura. Ora, quindi come si concilia questo con il fatto di mangiare di latte? Se dobbiamo mangiare di carne, però abbiamo l'usanza di mangiare di latte, come si fa? Allora, quello che molti fanno, di nuovo ripeto, so che ci sono molte usanze, però dico la cosa più diffusa da quanto ho visto nella mia esperienza, è che nel pranzo del primo giorno di Moed si fa il kiddush, si mangia qualcosa a base di latte, non cose che hanno formaggio stagionato o duro, perché lì bisognerebbe aspettare tanto prima di poter mangiare la carne, come abbiamo studiato nella scorsa lezione di Halakha di carne e latte, ma cose più fresche, eccetera, e poi si sparecchia, si riapparecchia dopo un po' e ci si rimette a tavola per il pasto normale festivo di carne di Shavuot. Questo usano molti. Altri usano che la mattina, prima di andare al tempio, mangiano qualcosa di latte come un yogurt, che non è proprio mangiare. Uno potrebbe, se ha bisogno della forza per fare tefilà, può mangiare un yogurt prima di andare al tempio, e questo già rientra nell'usanza teoricamente di mangiare di latte. Cioè, perché dico questo? Perché bisogna ricordare che la mitzvah del pasto è un pasto di carne. Se uno vuole fare un pasto di latte, può anche fare un pasto di latte, però non deve dimenticare che c'è la mitzvah di mangiare anche di carne di Moed. E anche va sottolineato che chi non ama la carne, allora non deve mangiare la carne, perché il motivo per cui c'è la mitzvah di mangiare la carne di Shabbat e di Moed è per il piacere e per la simcha. È ovvio che a chi fa male o a chi non piace la carne non rientra più nella mitzvah di mangiarla. Quindi questa è una indicazione generale, e ognuno, comunque è importante seguire l'usanza legittima di famiglia o della comunità alla quale appartiene. E quindi potrei poi rispondere a domande specifiche, ma non allungo più su questo discorso della carne e del latte che si usa a mangiare di Shavuot. Durante il giorno di Shavuot, il primo giorno, si leggono appunto i 10 comandamenti, e la Haftarah è la Haftarah della Merkavah, del carro, della visione che vide Yehezkel, il profeta Ezechiele, che è una visione molto particolare, una grande rivelazione, e per questo si legge il giorno di Shavuot, che anche è l'anniversario della più grande rivelazione in assoluto, cioè il momento del dono della Torah, il momento dei 10 comandamenti. E anche alla fine dell'Haftarah si dice Vatisaeni ruach vaeshma kol ra'ash gadol, e cioè questo grande spirito e questo grande rumore che sentì il profeta Yechezkel, che richiama un po' il grande evento che appunto ebbe luogo durante il dono della Torah sul monte Sinai. Nella lettura dei 10 comandamenti ci sono due modalità di leggere i 10 comandamenti. Che significa due modalità? Se noi apriamo un libro di Torah, vediamo che ci sono le vocali per vocalizzare le parole, e ci sono anche i segni dei teamim che indicano come cantare la lettura, le cadenze, eccetera. Nella Seretta di Brot ci sono due teamim, gruppi di teamim diversi. Perché? Perché ci sono i teamim normali e ci sono i teamim che sono dedicati, diciamo, esclusivi per la lettura dei 10 comandamenti nella parasha di Shavuot e di Yitro. Qual è la differenza? La differenza è che secondo i teamim speciali, ognuno dei 10 comandamenti, ognuno della Seretta di Brot, forma un unico pasuk, un unico versetto. Quindi i 10 comandamenti diventano 10 versetti della Torah, anche se nella lettura normale sono più di 10 versetti. O alcuni comandamenti sono inclusi in un unico versetto. Mentre invece nella lettura della Seretta di Brot, la lettura particolare, cosa abbiamo? Ogni pasuk corrisponde a un diber, uno dei comandamenti. Quindi abbiamo alcuni versetti che si allungano molto, perché per esempio i primi Anochi, Hashem, Elokecha, Asher Tzadikcha Meretz Yisrael, eccetera, è un comandamento lungo, non molto lungo, però per esempio quello dello Shabbat è abbastanza lungo, e comunque rimane un unico verso che è diverso da come i Teamim sono indicati normalmente nel libro della Torah. E un altro punto che riguarda questi giorni festivi di Shavuot è che non si dice il Tachanun già da Rosh Chodesh, quindi in questo caso era da martedì, fino a dopo Shavuot, sicuramente fino all'ottavo giorno del mese, che è il giorno successivo a Shavuot, perché ogni Moed abbiamo un giorno di Isru Chag, cioè un giorno che rimane festivo alla luce della festività appena passata, ma secondo molte usanze non si dice Tachanun addirittura fino al 12 del mese di Sivan, quindi quasi la metà del mese. Perché? Perché le korbanot, le offerte, i sacrifici che si portavano nel Bet HaMikdash legate alla festa di Shavuot potevano essere portate dal primo giorno di Shavuot per 7 giorni. Per tutta la settimana si potevano portare, si chiamano Yemei HaTashlumin, giorni dove si può ancora recuperare il Korban del Moed, e quindi chi porta il Korban del Moed per lui è una festività. E allora, rientrando in questo discorso, molti usano non dire il Tachanun fino al 12 di Sivan, e anche qui chiaramente ognuno segua le proprie usanze della propria comunità. Per concludere, una indicazione sul Moed e lo Shabbat di nuovo. Quando Shabbat conclude, possiamo preparare il secondo giorno di Moed, il primo giorno di Moed. Quando conclude il primo giorno di Moed, possiamo prepararci per il secondo giorno di Moed. Cioè lo stesso discorso vale anche da Moed a Moed. Quando domenica è Moed e noi dobbiamo preparare delle cose per lunedì, dobbiamo aspettare che esce il primo giorno di Moed, secondo l'orario dell'accensione delle candele del secondo giorno di Moed, quindi di domenica sera, e poi preparare per domenica sera e lunedì. A meno che uno domenica a pranzo prepara una quantità che o entro il tempo che potrebbe anche essere consumato qualcosa, magari per i bambini il pomeriggio se cenano presto, e può già essere consumato nel giorno stesso, e si consuma già qualcosa nel giorno stesso, allora si può fare una quantità maggiore se servirà anche per domani. Ma cucinare proprio per il giorno dopo o qualsiasi cosa che sia preparativo per il giorno dopo non è possibile finché non esce appunto il primo giorno di Moed, perché i 2 giorni di Moed sono distinti in questo senso. Alla fine del Moed, quando finisce appunto in questo caso lunedì sera, conclude il Moed secondo l'orario appunto indicato nei lunari, allora c'è Arvit e c'è la formula di Avdalah regolare, normale come sabato sera nell'Arvit, e c'è l'Avdalah sul calice di vino. Come ogni volta che esce lo Shabbat, con un'unica differenza, che visto che esce Moed, non sta uscendo Shabbat, sta solo uscendo Moed, si dice solamente la formula del vino e non si accendono le candele o la candela dell'Adalah e non si annusano gli odori, quindi senza le berachà di Bessamim e senza la berachà di Borem Orea Esh, si fa lunedì sera una Adalah normale sul vino come sabato sera, ma senza questi 2 elementi. Auguro a tutti un sentito Chag Sameach e prima Shabbat Shalom.